questo è un po' il secondo rapporto della nuova era, potremmo dire. Per tanti anni noi avevamo valorizzato la capacità del sistema italiano della giustizia minorile, che è una capacità che era riconosciuta, insomma, a livello europeo, di residualizzare la risposta meramente punitiva, in particolare la risposta carceraria, e di rispondere al minorenne autore di reato con una presa in carico a tutto tondo, capace sempre di guardare alla sua educazione più che alla sua semplice punizione. Ecco, a noi sembra che ultimamente questa capacità si stia andando perdendo. C'è stata sicuramente un'espansione dei numeri del carcere, i numeri della risposta segregante in generale. Sono stati aperti 3 nuove carceri minorili, che io credo che sia una sconfitta per la collettività, perché insomma il problema non può essere quello di dove mettiamo i corpi dei ragazzini, non può essere un problema di spazi. Non è solo un fatto di numeri, cioè, con l'entrata in vigore delle norme del decreto Caivano nel settembre del 2023, c'è stato un gradino nei numeri del carcere, delle comunità, dei CPA, delle risposte penali più rilevanti, cioè quelle chiuse. Ma il decreto Caivano non sono solo norme, sono anche indicazioni culturali che ci dicono che bisogna reagire con fermezza a questi ragazzini criminali, e sono indicazioni culturali che il sistema ha finito per recepire, che sono penetrate. Noi parliamo con tanti operatori che veramente svolgono un lavoro fantastico nel sistema della giustizia minorile, che un po' con sgomento ci dicono: quando io mi sono formato, quando io sono entrata nel sistema, quello che dovevo fare, quello che si richiedeva da me, è che il sistema si dovesse adattare, dovesse andare incontro alle esigenze specifiche, individuali, sempre diverse, del singolo ragazzo o della singola ragazza. Oggi il sistema sta fermo. Chi ha le sue forze, chi ce la fa, chi ha la famiglia dietro, chi ha tante cose, si salva, e chi invece non si salva, peggio per lui. Questa è un po' la spiegazione del titolo un po' tragico che abbiamo dato a questo rapporto: io non ti credo più, perché i nostri giovani li stiamo andando perdendo, non ci credono più, non credono più a noi, al mondo degli adulti, che questa giustizia abbiamo messo in piedi, una giustizia che non costruisce per loro futuro, non dà loro una speranza. E questo cambiamento culturale è stato fatto con la spiegazione di una presunta emergenza criminalità minorile. Io credo che noi dovremmo dire con molta onestà intellettuale che i dati che abbiamo a disposizione non ci permettono di avere un quadro delineato, univoco e chiaro della situazione fino in fondo. Questo è un problema, però sicuramente quello che possiamo dire con i dati che abbiamo non ci parlano di una emergenza criminalità minorile. L'emergenza è nell'allarme sociale che si è generato, quello sì, nel panico morale che si è generato. È vero che tra il 2024, che sono gli ultimi dati disponibili sulle segnalazioni dei minori, e il 2023 c'è stata un'impennata delle denunce, perché si corre a denunciare qualsiasi cosa quando riguarda dei minorenni, dei comportamenti che un tempo avremmo gestito in ambito scolastico, con la ramanzina del vicino di casa, no? Adesso invece si va a denunciarli. Se le denunce sono cresciute di quasi il 17%, le segnalazioni. Se poi vediamo le segnalazioni che dall'autorità giudiziaria a propria volta sono andate ai servizi della giustizia minorile, la crescita scende al 12%, sempre grande, ma diciamo un pezzo si è perso per strada perché era irrilevante evidentemente. E se vediamo poi il numero di ragazzi che sono stati presi effettivamente, sono poi entrati nel sistema perché c'era bisogno effettivamente di una reazione di quel tipo, la crescita è del solo il 2%. Abbiamo avuto un'impennata negli ingressi, le reazioni importanti penali, quindi il carcere, la comunità, i passaggi per i CPA fra il 23 e il 24, e fra il 24 e il 25 sono rimasti uguali quando le norme sono andate a regime, quindi il cambiamento non è stato tanto nell'oggetto quanto nella reazione a quell'oggetto. Lo stesso governo, quando esce da contesti sloganistici, giornalistici e da talk show, per esempio nella relazione sull'amministrazione della giustizia, lo dice anche lui. Relativamente al fenomeno dei reati di gruppo, fortemente attenzionato a livello mediatico, le osservazioni degli operatori non rilevano negli ultimi anni consistenti differenze relative ai reati commessi in gruppo. Tali agiti, definiti devianti, attribuiti alle cosiddette baby gang, assumono in realtà forme e modalità espressive molto differenti fra loro, inerenti piuttosto a nuove forme di disagio. Negli stessi giorni, in conferenza stampa, Giorgia Meloni diceva: ci sono provvedimenti che stiamo studiando, uno riguarda le baby gang, la situazione è fuori controllo. Allora io credo che questo non sia un modo corretto di fare informazione verso i cittadini. Credo che dovremmo invece interrogarci su quali sono i problemi veri. È preoccupante l'aumento delle tante forme di povertà che riguardano i più giovani e le tante forme di disagio, dove servirebbe una risposta di tipo sociale e non penale. La povertà assoluta in Italia continua a colpire soprattutto i minori, l'uso degli psicofarmaci nella popolazione minorile è raddoppiato quasi tra il 2016 e il 2024, e vi è poi il tema dei minori stranieri non accompagnati, che, guardate, ragazzi, il numero dei ragazzi stranieri non è aumentato, la percentuale, non il numero, non è aumentato in carcere negli ultimi anni, sono stati sempre più o meno la metà, ma prima c'era una grande rappresentazione dell'est Europa, di altri paesi, ora è tutto Nord Africa e sono tutti minori stranieri non accompagnati, ed è andata di pari passo ad una diminuzione delle risorse che noi investiamo nei posti per l'accoglienza esterna. E che cosa ci aspettiamo? Se lasciamo questi ragazzini a vivere per strada, prima o poi inevitabilmente finiranno per incrociare il carcere.